denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. E buongiorno a tutti, bentrovati a Due di Denari. Sì, effettivamente lo devo ammettere, ero distratta dalla chiacchierata con l'ospite in studio con la quale inauguriamo questo 2018. Ve la presento tra poco, ma intanto buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, anche questa mattina in diretta, anzi torno questa mattina in diretta dopo qualche giorno di vacanza. Ho lasciato la trasmissione ben custodita nelle mani di Mauro Meazza, che salutiamo, e mi ha lasciato invece adesso l'incombenza per questa prima fase del 2018. Auguri a tutti, naturalmente speriamo di tenervi per tutto l'anno una buona compagnia, informandovi naturalmente sui temi che vi sono più cari in qualità di risparmiatori e consumatori. Abbiamo tanti argomenti da affrontare e lo faremo naturalmente quotidianamente, perché intanto la legge di bilancio ci ha consegnato molte questioni da affrontare e da chiarire per voi. Per quello che riguarda invece questa prima puntata dell'anno, di che cosa parleremo? Intanto è iniziato l'anno per i mercati finanziari, quindi avremo tra poco la nostra analisi con la nostra rubrica di inizio settimana, anche se oggi è martedì, la nostra meteoborsa o il nostro meteoborsa, decliniamola al maschile o al femminile come meglio preferite, e poi per il resto della trasmissione proveremo a immaginare quello che potrebbe essere il 2018 per i consumatori italiani. Hanno tante battaglie da affrontare, lo fanno in prima linea le associazioni dei consumatori per loro. Faremo un bilancio della situazione del 2017 che si è appena concluso e che è stato ancora una volta l'anno del risparmio tradito, purtroppo, ma in secondo piano ci sono state tante altre battaglie che le organizzazioni che appunto operano per i consumatori hanno portato avanti. Quindi faremo un punto, una lista della spesa anche di quelle che sono state portate avanti con successo e di quelle che ancora invece lasciano uno strascico nel 2017 e che dovranno essere portate avanti nell'anno che si è appena aperto. Raccontateci quali saranno le vostre battaglie come consumatori. Siamo in diretta anche questa mattina, per cui potete chiamarci all'800 24 00 24, ci potete scrivere al 349 238 6666, riceviamo come sempre i vostri messaggi che ci arrivano attraverso la modalità tradizionale SMS, ma siamo raggiungibili anche attraverso WhatsApp, siamo raggiungibili anche su Facebook. Per questi giorni non ci sarà la diretta live, ma siamo naturalmente sul social network attivissimi, grazie al nostro Marco Lombardo che monitora tutto. In regia c'è Filippo Aureggi, per cui insomma io il sommario di questo inizio 2018 di Due di Denari ve l'ho fatto, adesso direi che possiamo partire. Meteo Borsa. Che 2018 sarà per i mercati finanziari? Beh, intanto l'apertura di questa prima settimana dell'anno non sembra essere particolarmente incoraggiante. C'è però da dire, se avete seguito i bilanci del 2017, che è stato un anno molto favorevole per il mercato azionario, per cui esattamente come si è concluso il 2017 all'insegna delle prese di profitto, probabilmente l'anno si apre male anche per esattamente per questo motivo, perché stanno continuando a portare a casa gli operatori finanziari un po' quello che hanno guadagnato l'anno scorso. C'è anche da dire che c'è un temino di disturbo in Europa questa mattina, ma in realtà lo è dalla settimana scorsa, che è l'euro che continua a grattare posizioni sul dollaro. Stamattina siamo nel rapporto di cambio a 1,2067. Per quello che riguarda le borse europee, l'euro si riflette in questa maniera sul mercato azionario, con una prestazione negativa di Parigi dello 0,8%, Francoforte sta perdendo quasi un punto, Londra meno 0,32%, Milano meno 0,31%. Quali temi stanno contrassegnando questa seduta? Lo raccontiamo con Massimo Saitta, direttore investimenti di Intermonte Advisory e Gestione, che salutiamo intanto. Grazie per essere con noi in questo 2 gennaio e buon anno, Saitta, buongiorno. Grazie, ricambio gli auguri, buona giornata. Allora, intanto preannuncio già così la blindo definitivamente, Saitta, che lei sarà anche stasera con noi a Focus Economia per commentare poi la fine della prima giornata finanziaria del 2018. Andiamo un po' così ad aprire questo vaso del mercato finanziario di questa mattina. L'apertura negativa la dobbiamo ricondurre tutta a questo euro particolarmente forte sul dollaro, peraltro siamo ai massimi da 3 anni a questa parte, era dall'inizio del 2015 che l'euro non toccava e superava abbondantemente 1,20 rispetto al biglietto verde. Cosa ci racconta intanto questa tendenza sul mercato valutario, Saitta? Insomma, che cosa ci dobbiamo aspettare? Sarà già un tema forte per tutto il 2018? Diciamo che per quanto riguarda il mercato di oggi è corretto quello che diceva poco fa, cioè che è un po' una continuazione delle ultime sedute, dell'ultima in particolare del 2017, con prese di profitto abbastanza marcate sui temi che avevano performato molto bene. C'è anche da dire che uno dei classici dell'apertura del nuovo anno in effetti è anche un po' la rotazione tra i migliori e i peggiori dell'anno precedente. In particolare oggi c'è molta pressione sul settore automobilistico europeo, che è uno dei performer migliori dell'anno passato, e quindi ci sta, insomma, che in qualche modo ci sia un movimento così sostanzialmente in continuazione con lo scorso anno. Il dollaro di sicuro non aiuta, anche questo sembra però più un movimento tecnico a questo livello. Devo dire che il dollaro ha seguito per tutto l'anno l'apprezzamento per le politiche trumpiane, che è stato costantemente in discesa, e quindi coerentemente si è mosso indebolendosi. Questo indice mostra un rimbalzo che è stato successivo all'approvazione della riforma fiscale, e tuttavia il dollaro continua a rimanere debole, quindi diciamo è una debolezza forse più intrinseca che trova una rispondenza, se vogliamo, in Europa a un atteggiamento che sembra ormai imminente, decisamente meno conciliante da parte della BCE. Allora, quali saranno, Saitta, i dati macro più importanti di questa settimana della Befana? Già questa mattina stiamo monitorando alcuni indicatori sull'andamento del settore manifatturiero in Europa. Quello europeo è salito oltre i 60 punti, quindi segnaliamo che nell'eurozona la fase di espansione economica sta continuando, e questa mi pare quantomeno, come prima notizia di questo anno finanziario, una notizia piuttosto importante, perché poi da questa dipenderanno probabilmente anche le politiche monetarie della Banca Centrale Europea, se saranno all'insegna di una maggior restrizione quest'anno come promesso da Draghi. Insomma, che cosa ci racconta il dato di questa mattina sul PMI manifatturiero, che è stato diffuso, quello complessivo per quello che riguarda l'eurozona, ma anche quello che riguarda ogni singola economia europea, dalla Germania all'Italia, alla Francia e anche la Gran Bretagna? No, ci descrivono ancora una situazione decisamente brillante sotto il profilo macroeconomico. La questione deve essere vista, secondo me, un po' sotto due profili. C'è indiscutibilmente l'ingresso in una politica meno espansiva, e questo per via del taglio agli acquisti in bond che viene fatta dalla BCE, che, come probabilmente ormai è noto, passano dal mese di gennaio da 60 a 30 miliardi mensili. Tuttavia, risommando a questi il valore di 15 miliardi, che all'incirca in media l'importo dei riacquisti, si arriva a un valore complessivo di 45 miliardi contro 60, quindi una politica sì meno espansiva, ma non drammaticamente meno espansiva. E soprattutto la riduzione dello stimolo monetario è stato largamente preannunciato, per cui l'effetto sul mercato assolutamente e comunque proseguirà fino a dopo l'estate, quindi non siamo di fronte a un taglio netto della politica seguita sin qui dalla BCE, ma solo, diciamo, a una modesta riduzione degli acquisti, che accompagni invece una ripresa che sta guadagnando progressivamente forza e che è mai ben visibile, direi, un po' in tutta Europa, certo, compreso nel nostro paese, che è stato un po' il fanalino di coda per lungo tempo. Ecco, allora rimaniamo un po' sull'analisi relativa al nostro paese, Saitta, perché qua Presidente della Repubblica Mattarella ha sciolto le Camere. Abbiamo le nuove elezioni il 4 marzo, già qualcuno guarda questo appuntamento politico con un po' di apprensione. Tra l'altro proprio anche i cali di borsa degli ultimi giorni di Piazza Affari sono stati ricondotti in larga parte alle incertezze generate da questa nuova fase politica che si apre per il nostro paese. Parte la campagna elettorale con la formazione di tutti i nuovi schieramenti, con grande incertezza le liti che già vediamo, e soprattutto le previsioni che si possono fare in relazione a quella che potrebbe essere la politica economica per il nostro paese, di un paese che sta provando ad uscire da una crisi che l'ha letteralmente fiaccato negli ultimi 10 anni, e ancora rimaniamo in termini di ripresa economica fanalino di coda di tutto il resto d'Europa. Un trimestre caldissimo sarà per quello che riguarda appunto l'Italia. Quanto condizionerà la campagna elettorale italiana i mercati finanziari europei? Allora, diciamo che una certa stampa, soprattutto anglosassone, si è già scatenata nel disegnare scenari di instabilità che arrivano dal nostro paese, dimenticandosi quello, un'evidenza che mostra la più recente esperienza in questo senso, e cioè che quando la ripresa economica è forte, l'instabilità politica diventa sì un fattore sfavorevole, ma che viene ampiamente ammortizzato. Parlo riguardo alle più recenti vicende catalane per quanto riguarda la Spagna, piuttosto che la Germania, che fatica a trovare un nuovo governo. Quindi tra instabilità politica e ripresa economica ai fini del mercato è più importante intercettare la seconda, insomma. Quindi, se vogliamo, questa posizione è sicuramente una posizione un po' scolastica di approcciare il tema dell'instabilità politica. Rimane il fatto che i mercati europei hanno chiuso il mese, direi l'anno 2017, il mese di dicembre 2017, con una volatilità che staziona molto vicino ai minimi degli ultimi 5 anni. Quindi non è inaspettato non è inaspettata la possibilità che la volatilità possa riprendere, e in questo senso vedo il rischio. La scusa sarà la politica italiana, praticamente. Esatto, in questo senso la politica italiana è una buona scusa. Allora, secondo lei però la turbolenza sarà maggiore, la maggior volatilità, se ci sarà, sarà in borsa o tra i bond, sul mercato obbligazionario, che generalmente è quello un pochino più sensibile alla variabile politica? Da quando il focus si è concentrato sullo scioglimento delle camere italiane, quindi sul fatto che l'instabilità politica diventa, come dire, visibile, effettiva, non c'è stata una grande differenza, almeno in termini di direzione, nel senso che sia il mercato azionario che il governativo italiano hanno sofferto. Il governativo, rispetto al mercato azionario, ha un doppio elemento negativo, e cioè che mentre il mercato azionario ha da un lato un aumento della volatilità e un tema che può giocare negativamente, ma con la ripresa economica che gioca invece a livello micro favorevolmente, sul mercato soprattutto dei governativi abbiamo la situazione dell'instabilità politica che gioca negativamente, e una situazione di tassi, direi a questo punto europea, che gioca ugualmente contro, insomma, quindi ha un doppio elemento negativo. Non vi annoierete nelle prossime settimane, Said, mi pare di capire. Senta, la interrompo brutalmente su questa analisi perché mi interessa capire anche quali settori voi monitorerete prossimamente. Abbiamo avuto un anno piuttosto interessante per il comparto delle materie prime, sta tornando a salire anche il prezzo del petrolio, e quindi quello sarà un tema certamente da monitorare, perché poi anche quotazioni molto alte condizionano tutti gli altri settori economici. E le chiedo anche un commento, se ritiene, sul settore bancario italiano. Segnalo peraltro che Milano in questo momento sta peggiorando, perde lo 0,9% sul FTSE MIB, ed è positiva solamente Saipem, che guadagna lo 0,7%, ma c'è da ricordare che Saipem è stato il peggior titolo del 2017, ha perso il 28,5%, quindi quantomeno oggi prova un rimbalzino poco più che tecnico, aiutato anche dalle quotazioni del greggio. Saitta, settori. Allora, sì, agganciandomi alla questione del greggio, noi pensiamo che la disciplina che l'Arabia Saudita si è imposta, e indirettamente ha imposto un po' ai paesi dell'OPEC e anche al di fuori del cartello in termini di quote produttive, dovrebbe continuare. La quotazione di Saudi Aramco, che è prevista nella parte centrale, inizio della seconda parte dell'anno, sarà la più grande IPO, la più grande quotazione credo di tutti i tempi, sì, di ogni settore, sì, esatto, una delle più grosse, ed è soprattutto su un settore che di grande importanza geopolitica, dovrebbe continuare a prolungare questo stato di cose. Quindi un petrolio che probabilmente non toccherà i picchi che conoscevamo fino a non tantissimo tempo fa, ma che comunque dovrebbe restare nella parte medio-alta dei prezzi visti recentemente, dovrebbe aiutare il settore petrolifero, che quindi è nelle chiamiamo tra i preferiti degli strategist per il 2018. Un altro dei settori che nel contesto che abbiamo appena descritto, cioè di ripresa economica e di una ripresa dei tassi di interesse che si può pensare sia sensibile ma non contraddistinta da vere fiammate, dovrebbe essere il settore bancario, dove se questi sono gli elementi positivi, però si compendiano anche con la posizione degli enti regolatori, che invece in alcuni casi molto differenti. Parlo di casi perché nel complesso mi sembra di poter dire che il regolatore abbia ormai assunto una posizione più neutrale verso quelle banche che hanno già raggiunto una copertura dell'esposizione non performante che viene ritenuta sufficiente. Parlo soprattutto dei grossi istituti, riferendomi in particolare alla realtà italiana. Per gli istituti regionali o quelli più piccoli sono un po' sotto le scure del quello che viene chiamato il caso per caso, la valutazione caso per caso, perché in taluni casi in effetti alcune debolezze patrimoniali sono ancora piuttosto rilevanti, soprattutto se si comparano con la copertura appunto dell'esposizione non performante che continua a essere in percentuale e questo elevata. Potrebbe anche rimettere in moto la stagione del risico bancario in Italia, ma lo vedremo nelle prossime settimane. Per adesso la ringrazio, Saitta, ci risentiamo stasera a Focus Economia, si tenga pronti intorno alle 17:40 per il resoconto di questa prima giornata finanziaria del 2018. Volentieri. Grazie, buona giornata. La regia mi controlla severamente nella gestione degli spazi musicali che utilizziamo per la nostra trasmissione. Allora, questo è il nuovo anno. Le sfide per noi consumatori e per le organizzazioni che ci rappresentano non finiscono mai. Ogni anno si aprono fronti nuovi, anche se poi non tutti guadagnano alla pari la ribalta della cronaca. Gli ultimi anni sono stati particolarmente concentrati sulle questioni bancarie, sui nuovi casi di risparmio tradito, le situazioni degli azionisti e degli obbligazionisti delle cosiddette banche risolte, le 4 del novembre del 2015, poi a seguire le due venete. Sono in corso i risarcimenti e gli indennizi, ma ci sono ancora tante situazioni problematiche aperte. Questo è un fronte importante. Poi ci sono tutti gli altri, i nostri rapporti con la banca in termini tradizionali, il nostro conto corrente, il nostro rapporto con il gestore dell'energia, con l'operatore delle telecomunicazioni e non solo. I trasporti, un altro tema caldissimo. Apriamo l'anno con i nuovi rincari sul fronte delle autostrade, con la stangata che arriverà a breve per quello che riguarda i trasporti pubblici di Milano. Partono i saldi oggi e anche come consumatori dei beni di largo consumo naturalmente siamo sempre vigili e attenti su quello che succede attorno a noi. Tanti temi di cui discutere questa mattina con il primo ospite dell'anno. Se l'anno si apre così sarà sicuramente un buon anno anche per Due di Denari, l'avvocato Maria Stella Anastasi, vicepresidente nazionale della Lega Consumatori. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori, buon anno. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Vi chiedo un aiuto questa mattina a gestire la mia chiacchierata con l'avvocato Anastasi. Raccontateci intanto qual è la situazione che vi preoccupa di più per quello che riguarda i vostri denari in prospettiva nel 2018. Le bollette che aumenteranno, perché anche questa è la notizia che è arrivata negli ultimi giorni del 2017, oppure il vostro rapporto con l'operatore telefonico, il rapporto con la banca. Raccontate al numero verde o al 349-238-6666. Avvocato Anastasi, comincio però con lei chiedendole un quadro così di insieme dei temi che avete dovuto affrontare con i vostri assistiti nel 2017. Quali sono quelli che si sono messi più in evidenza e che lasciano ancora lo strascico, che praticamente quindi con i quali dovrete ripartire anche in questo nuovo anno? L'ha detto lei, il risparmio tradito. E quindi, come dire, se non fossero bastate le 4 banche risolte tra il 2015 e il 2016, il 2017 è stato l'anno della liquidazione coatta amministrativa delle due ex banche venete, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che hanno determinato una situazione veramente di grande, grande difficoltà per i risparmiatori coinvolti, soprattutto perché diciamo, sono stati trattati in maniera ancora diversa rispetto ai risparmiatori delle quattro banche risolte, rispetto a coloro che erano stati coinvolti nelle problematiche di Montepaschi Siena, che anche questa non dobbiamo dimenticarcela. E quindi chiaramente questi strascichi ce li portiamo nel 2018, la necessità di capire, adesso la legge di bilancio ha portato con sé anche il fondo, un nuovo fondo di risarcimento, quindi capire con il gruppo che ha acquisito le due banche venete come conterà appunto di procedere. Anche il gruppo Intesa San Paolo ha previsto un fondo di indennizzo che però ha, come dire, dei criteri molto restrittivi. Lo stesso fondo previsto dalla legge di bilancio, dovremo capire meglio se e con quali tipologie di provvedimenti giudiziari i risparmiatori coinvolti, gli azionisti coinvolti potranno accedere a questo fondo per il ristoro delle perdite subite. E quindi, come le dicevo, questo è sicuramente il tema, ma in generale il tema del risparmio, del rapporto del cliente, rapporto banca-cliente. Domani entra in vigore la cosiddetta MiFID 2, esatto. Che non è la vendetta. No, abbiamo stressato tanto. Speriamo gli ascoltatori che sia la vendetta. Su questo appuntamento ci sono molte aspettative, soprattutto dagli operatori del risparmio, certo, dal mondo della consulenza, che sarà maggiormente responsabilizzato proprio nei termini della relazione con il proprio cliente, dovrà essere molto chiaro sui costi che applica alla consulenza e anche al collocamento dei prodotti e su tanti alle commissioni esatto. che paghiamo per entrare, per uscire da un fondo, da un prodotto di investimento. In generale i prodotti di investimento, gli stessi PIR, i piani individuali di risparmio, che sono grande stati grande novità del 2017. Esatto, grande novità introdotta, ma gli stessi PIR hanno, come dire, degli aspetti che sono interessanti, certamente il fatto portano per il risparmio degli fiscale italiani, esatto, e soprattutto vogliono portare il risparmio delle famiglie italiane verso l'economia reale, quindi diciamo, le medie, il principio piccole e medie imprese eccetera. Però certo quello che il risparmiatore chiede è informazione e trasparenza, che è quella che è mancata in questi anni. E quindi noi ci auguriamo che la MiFID 2, quindi questa direttiva europea, effettivamente aiuti. Cioè lo scopo della normativa europea è proprio quello di dare una maggiore trasparenza, diciamo maggiori informazioni alla clientela, che veramente il cliente venga profilato in base alle proprie esatto. esigenze reali e non alle esigenze di fare magari budget delle banche italiane, che esatto. è quello che è successo in questi anni esatto. e che ha determinato queste vicende di risparmio tradito. La profilatura corretta, perché quello che abbiamo visto anche negli ultimi anni è che per collocare queste obbligazioni, che poi sono state azzerate nei confronti dei risparmiatori, venivano alterati i profili di rischio in maniera, noi abbiamo visto riprofilatura, ecco. Sì, abbiamo visto dei profili che definire alterati è un eufemismo, per cui anche noi controlliamo bene quando il consulente fa questa operazione con noi, compila appunto il cosiddetto questionario MiFID e facciamo in modo che tutto quello che viene riportato in questo documento corrisponda esattamente alle nostre caratteristiche, ai nostri bisogni, alle nostre esigenze. Quindi non lasciamo fare completamente alla persona che ci troviamo no. di fronte, ma responsabilizziamoci. Assolutamente no. Quindi la MiFID sicuramente responsabilizza l'industria del risparmio, ma anche noi un po' la nostra parte, avvocato Anastasi, ma dobbiamo sicuramente farla. Il lavoro che le nostre associazioni cercano di fare da anni, che è comunque una goccia nel mare, è l'informazione, non mi piace chiamarla educazione, qualcuno la chiama educazione, preferisco parlare di informazione finanziaria. C'è chi la chiama alfabetizzazione. Alfabetizzazione, sì, ok, ci lì sta. Però dà un'idea veramente di una partenza da zero su tutto e noi non purtroppo siamo neanche qualcuno così. Diciamo che l'Italia purtroppo è veramente, lei parlava di fanalino di coda in economia, ma anche in informazione sui temi economici, e quindi adesso speriamo che è nato un gruppo di lavoro all'interno del Ministero dell'Economia, una sorta di cabina di regia sì, sì. Che vede coinvolti un po' tutti gli attori di questo mondo, a cominciare dalla scuola. Ovviamente però questo è un lavoro che dura nel tempo e quindi nell'immediato... Il Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria, presieduto da Anna Maria Lusardi, che abbiamo avuto tante volte qui ad Odenari e che tante volte rivorremo, perché lei ci ha promesso che ci farà un punto preciso di come sta portando avanti i lavori di questo comitato e soprattutto la valutazione dell'impatto. Adesso si costruisce il comitato, dopodiché si portano avanti le iniziative sul territorio, ma poi bisognerà misurare anche... Monitorare. Esatto, misurare l'efficacia di queste iniziative, perché se sono solo delle operazioni di facciata ovviamente non servono a nulla. Ci fermiamo perché sono ben oltre le 11.30, sono le 11.31, devo raccontarvi di nuovo la giornata riborsa e poi abbiamo tanti altri temi da affrontare con Maria Stella Anastasi. Un fronte molto importante è quello delle famiglie che si devono indebitare, non solo per il mutuo ma anche per fronteggiare tante altre spese, anche quelle della quotidianità. È un tema che Maria Stella Anastasi ha seguito sempre molto da vicino ed è stata qualche anno fa tra le protagoniste della nuova stagione dei rapporti tra consumatori e banche, ha fortemente negoziato con l'ABI per la famosa moratoria sui mutui. Sembra un problema accantonato da qualche anno a questa parte, non è affatto così. Da questo ripartiremo per la seconda parte di Due di Denari. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, noi ci siamo. Due di Denari. Partenza rock anche per Due di Denari, pur trattando questa mattina problemi un po', questioni un po' delicate per i nostri ascoltatori, nel senso che stiamo un po' sollevando l'attenzione su tutti quelli che potrebbero essere, e adesso lo faremo, i temi da affrontare da parte delle associazioni dei consumatori in questo 2018. Ovviamente ci aiutano gli ascoltatori, avvocato Anastasi, le leggo qualche messaggio, poi qualcuno lo ascolteremo anche in diretta. Problema dell'anno, Andrea da Milano ci segnala, ma io ricordo ad Andrea che se va a guardare sulle nostre pagine, sul sito di Radio 24, troverà molte trasmissioni che abbiamo fatto sull'argomento. Risparmio tradito, i diamanti da investimento venduti dalle grandi banche italiane, venduti a prezzi alti perché le quotazioni le fanno le stesse società e non rimborsabili. Una persona va in banca, vuole liquidare questo investimento, la banca gli dice no, se io non trovo, come le obbligazioni subordinate, se io non trovo un compratore te li tieni, io non te li rivendo, per cui liquidi un cavolo direi, perché non sono affatto investimenti liquidi. Sentiamo anche qualche altro ascoltatore, se Marco ce l'ha messo in diretta. Abbiamo Cipriano dalla provincia di Caserta con cui inauguriamo le telefonate del 2018. Cipriano, buongiorno. Cipriano, inauguriamo niente perché non ci sente. Cipriano, ci sente? Adesso lo ripeschiamo con Filippo Aureggi. I debiti delle famiglie italiane, avvocato Anastasi, un tema che a lei sta molto caro. Questa mattina abbiamo peraltro un osservatorio diffuso da questa associazione che abbiamo già ospitato a Due di Denari, Prodi Italia, che parla di un 2017 complicato per le famiglie italiane schiacciate da debiti per cure mediche, assistenza e spese scolastiche. E un ascoltatore chiede quando tratterete l'argomento dei caregiver, è in manovra la legge che è stata inserita appunto nella manovra di stabilità, nella legge di bilancio. Avvocata Anastasi. Sì, le associazioni di tutela dei consumatori si sono battute in questi anni per ottenere delle leggi di contrasto alla povertà. La Regione Lombardia, per esempio, è una di quelle che tra le prime si è attivata in questo senso, e le associazioni di consumatori lombarde hanno in corso dei progetti di contrasto alla povertà in collaborazione con fondazioni e appunto con la Regione Lombardia, per intervenire anche in quelli che sembrano apparentemente bisogni, ma sono i bisogni primari. Cioè noi sappiamo che ci sono famiglie che non riescono neppure a pagare le utenze, le bollette di luce e gas, quindi per bisogni primari, il riscaldamento e l'elettricità. In questo senso ci siamo attivati in un progetto che è una sorta di presa in carico di queste famiglie che hanno... arrivano da problematiche diverse, per esempio problematiche di indebitamento per la presenza di familiari che sono entrati nella spirale del gioco d'azzardo patologico, e che quindi questo va a creare il sovraindebitamento della famiglia, perché il giocatore cosa fa? va a stipulare prestiti che poi non è in grado di certo. ripagare, magari anche con soggetti di dubbia reputazione direi. Esattamente, e quindi proprio con questa presa in carico attraverso gli sportelli di queste associazioni lombarde di tutela dei consumatori, patronati, che attiveranno una sorta di rete di sostegno e di presa in carico di queste famiglie per il supporto proprio al pagamento anche delle utenze di luce e gas, quindi con appunto la collaborazione di siete imprese. Siete già partiti con questa iniziativa? Siamo già partiti. L'avete esatto. fatto con un'altra associazione dei L'abbiamo consumatori? Fatto insieme a Feder Consumatori Lombardia, a Dadi Consum Lombardia, a FAP Lombardia, che è la federazione dei pensionati Lombardia, insieme alla Fondazione Cariplo, insieme al Banco Energia di A2A. Quindi una sorta di anche crowdfunding nei confronti di chi può aiutare gli altri a con un piccolo sostegno, con le proprie bollette, aiutare gli altri a pagare le proprie utenze. Chi è in una situazione appunto di povertà, di sovraindebitamento. Quindi quantomeno sul fronte delle utenze c'è chi cercheremo potrebbe naturalmente loro di lavorare attraverso spese. Questa rete di sportelli messi a disposizione dalle nostre associazioni che prenderanno in carico questa tipologia certo. di utenza. Mi sembra una buona iniziativa, avvocata Anastasi, soprattutto alla luce del fatto che abbiamo proprio dei begli aumenti in vista dal primo dell'anno. È arrivata la stangatina di fine anno comunicata dall'autorità del gas e dell'energia, motivata da tutta una serie di ragioni macroeconomiche, però insomma sarà un inverno. Poi come al solito gli aumenti arrivano quando parte la stagione dell'accensione degli impianti di riscaldamento, notiamo sempre anche queste circostanze e queste coincidenze. Questo però ci dà l'assist per parlare dei nostri rapporti, avvocato Anastasi, con le imprese di erogazione di gas ed energia con le quali abbiamo sempre dei rapporti un po' conflittuali, no? Le bollette che non sono chiare, la questione dei maxi conguagli, altro grande tema, cavallo di battaglia delle attività delle associazioni dei consumatori. Anche questo è stato un fronte molto spinoso del vostro lavoro negli ultimi anni. E peraltro ci sono tutti questi tavoli e protocolli di conciliazione che consentono al consumatore scontento dei servizi erogati dall'impresa di cui fruisce, che sono attivi da tanti anni, tutti radunati, tutti i tavoli nel famoso Consumer Forum, che è l'ente che praticamente raduna e fa dialogare tutte le associazioni dei consumatori con tutte le imprese. Ma insomma, questi tavoli di conciliazione funzionano, non funzionano? Quando un consumatore scontento deve andare a parlare con questo tavolo e per risolvere che tipo di problemi? Allora, la conciliazione paritetica è stata un cavallo di battaglia delle associazioni dei consumatori negli anni. Come diceva lei, sicuramente è un mezzo per risolvere le controversie tra azienda e cliente in maniera alternativa. Alternativa a che cosa? Ai tribunali, ai giudici di pace, ma che per quanto sono comunque la giustizia ordinaria, che ovviamente rimane sempre lì, ma ha dei tempi e dei costi molto diversi, molto elevati. E quindi che cosa si è pensato negli anni da parte delle associazioni? Di provare a trovare appunto una soluzione alternativa, una soluzione che fosse poco onerosa, a volte addirittura gratuita per il cliente, perché sappiamo benissimo che se abbiamo una differenza in fattura della nostra utenza di 50 euro, probabilmente nessun cliente andrà mai da un giudice. Però questo non è corretto, non è corretto perché lascia il danno là dove cade, cioè sul cliente finale, e in qualche modo l'impresa non lavora mai, in questo modo non lavorerebbe mai per trovare una soluzione a queste sue pratiche che si sono rivelate scorrette. La conciliazione paritetica consente appunto al cliente, attraverso questi protocolli di conciliazione siglati dalle associazioni con le imprese, Di ottenere delle risposte veloci, non positive, di superare quelle che sono le asimmetrie esatto. cliente-impresa. Diciamo che obbligano soprattutto le imprese a dialogare in tempi rapidi certo, col cliente scontento. Certamente, ecco, il cliente può rivolgersi appunto alle nostre associazioni che a seguito appunto della proposizione di un reclamo all'impresa, un reclamo che non è stato risolto, può chiedere appunto di risolvere la sua vicenda attraverso una procedura certo. appunto di conciliazione. Ma voi siete contenti di come funzionano questi tavoli? Noi siamo contenti che l'Europa abbia riconosciuto con la direttiva europea del 2015 le procedure appunto di conciliazione paritetica come una best practice, peraltro una best practice tipicamente italiana, e quindi è un riconoscimento di quello che è stato il lavoro delle nostre associazioni in questi anni. Naturalmente questi protocolli devono funzionare meglio, soprattutto quello che noi chiediamo alle imprese è che i protocolli non diventino un alibi, certo, per continuare a perpetrare pratiche commerciali scorrette. Infatti, come l'ultima che abbiamo visto, l'altra grande tematica del 2018, 28 giorni. Esatto, la fatturazione, la fatturazione a 28 giorni. No, ma tra l'altro mi scrive un'ascoltatrice, mi pare che sia un'ascoltatrice: ogni due mesi ricevo una bolletta con scadenza 20 giorni dalla data, la ricevo, se va bene, 8 giorni prima della scadenza, quindi non capisco esattamente la natura di questo problema, se l'ascoltatrice ce la potesse chiarire un po' meglio. Ricevo una bolletta con scadenza 20 giorni dalla data, ma in realtà la riceve 8 giorni prima della scadenza, quindi praticamente deve andare a pagarla rapidamente. Sì, non c'è con anche un questo problema decente. C'è stato negli anni, per esempio, il fatto che non venissero emesse nei tempi corretti le fatture, questo soprattutto per le piccole partite IVA, che si ritrovavano poi a avere dei problemi, certo, in quella che è per esempio la detrazione fiscale di questi costi, eccetera, perché queste fatture arrivavano molto tempo dopo. Sono una serie di problematiche, sì, che discutiamo, riconducibili anche al fatto che ancora utilizziamo l'invio fisico magari, sì, della bolletta, perché ovviamente il pensionato preferisce vedere il documento cartaceo, non può consultare online la scadenza della bolletta o meno, la comunicazione della società, però insomma c'è anche questo tema. Allora, dobbiamo andare in pausa perché sono le 11.45, c'è il traffico, ma prima del traffico in realtà c'è Mauro, anche se non c'è, mi ha lasciato però la sua simpatica iniziativa del lunedì, che oggi però è traslata al martedì. Abbiamo il nostro sonetto. Te ascoltatori che pensosi state sullo futuro ed anco sul presente degli risparmi vostri o dell'ingente mutuo che già in collo vi portate, coglietelo mio avviso in amistate ed accendete quotidianamente la radio sul canale più eloquente, colmo di voci esperte ed aggraziate. Se voi li siete per poterli udire, all'11 verran due di denari, Debora Bella e Mauro, che verseggia talvolta sopra il fisco e sugli affari e vuole nel sonetto si stupire che Debora domanda se vaneggia. Ma l'è piccola scheggia, perché due di denari ormai l'è un classico. E in tanta utilità vi dà anche il traffico. Due di denari. Marco Lombardo è così, ha finito il 2017 rock, lo ricominciamo in questa maniera, pop rock, Maria Stella Anastasi, per alleggerire un po' anche i temi che affrontiamo. Non vorremmo proprio deprimere al massimo i consumatori, già di problemi ne abbiamo tanti, noi anche con la colonna sonora cerchiamo di alleggerire un po' il clima. Le faccio un'infornata di ascoltatori, poi vediamo qual è, certo, il caso che la colpisce di più. Cominciamo con Michelangelo da Milano, velocemente, ne ho già parlato poco fa, Michelangelo, ma lascio a lei così il beneficio anche della lamentela. Buongiorno, velocissimo, grazie. Sì, no, rapidissimo. Mia madre ha, intanto buon anno a tutti. Altrettanto. Allora, mia madre ha investito, ma sul consiglio della banca, circa 50.000 euro per quanto riguarda la questione dei diamanti. Diciamo che la banca, non la cito ovviamente, ma è una delle maggiori, le più grandi banche. Ma guarda, le abbiamo stracitate noi, Michelangelo, sappiamo chi sono le esatto, più grandi l'hanno fatto, sì, esatto. La domanda è questa: noi faremo azione legale ovviamente, ma di quanto mia madre rientrerà di questa cifra? Ma io credo che questo sia deriverà dalla, vabbè, se fate causa magari lo stabilisce un giudice. Detto questo, ci sono, una delle due banche sta chiamando tutti quanti i clienti, esatto, e individualmente li sta risarcendo. Ci hanno integralmente. Abbiamo avuto proprio un'assicurazione da parte loro in questo senso, che provvederanno loro, infatti, in questa direzione. Quindi abbiamo chiesto, appunto a tutte quelle coinvolte, come diceva l'ascoltatore, senza fare nomi, ma insomma sono quelle grandi. Unicredit, inteso. Bibanca le hanno fatte quasi. Ecco, però da parte di una sicuramente è già arrivata la conferma che, come diceva lei, stanno cominciando a chiamare per ristorare i clienti. Con un'altra ci è stato promesso un incontro a gennaio per appunto chiarire i termini di questo ristoro, e quindi ci auguriamo che almeno questa vicenda venga definita. Anche in questo caso dipenderà dalla modalità con cui questo prodotto di investimento è stato collocato, perché se è avvenuta questo collocamento, è avvenuto nella inconsapevolezza del sottoscrittore, in questo caso la mamma di questo ascoltatore sarà una signora di una certa età, dipende dalle promesse che le sono state fatte, Michelangelo. Detto ciò, la cifra mi sembra abbastanza importante da portare avanti, forse una sollecitazione di natura legale, avvocato, non dico proprio la causa, però va detto questo. Che qualcuno sostiene ancora che qualche letterina di Babbo Natale da parte dell'avvocato funziona. Funziona sempre. Paola da Bologna, buongiorno, benvenuta e buon anno. Come? Benvenuta e buon anno. Grazie anche a voi, io vi ascolto tutte le mattine e trattate sempre argomenti molto molto interessanti. Ci racconti, stamattina state parlando delle bollette. Io ho cambiato da poco gestore per la contemporaneamente luce e gas, e in effetti tutto quello che viene reclamizzato dalle varie ditte di cui non faccio il nome, dalle varie compagnie, alla fine si diventa un grande bluff, perché sembra che ti facciano dei prezzi chissà come, che ti regalano tutto. E invece Paola, abbiamo capito, la ringrazio. Io, come dire, sono un po' brutale nella chiusura dei racconti degli ascoltatori, perché il tempo ci sta sfuggendo di mano. Allora, passare da un operatore all'altro, intanto è un calvario, avvocato Anastasi, l'abbiamo raccontato tante volte. Il tema è che il grande risparmio non si può fare. Una bolletta è gravata al 60-70% da imposte e tasse. Sono voci incomprimibili, quindi l'unica parte su cui un operatore nuovo può intervenire è la voce consumo. Che cosa cambiamo a fare? Che tanto non si può fare più di tanto. Sono d'accordo con lei, ma soprattutto quello che in qualche modo noi contestiamo molto è anche questo marketing selvaggio da parte delle aziende. Il continuo chiamare a casa la clientela, spesso anziana, spesso inconsapevole, che spesso dà dei consensi come dire sulla base di telefonate dalle quali capiscono poco nulla. Ecco, e questo è un tema sul quale anche ci siamo molto impegnati. Siamo riusciti, le associazioni sono riuscite ad ottenere con l'ultima appunto legge di bilancio dei miglioramenti alla famosa normativa sul marketing selvaggio. Diciamo che non siamo ancora all'optimum che avremmo desiderato, perché naturalmente la lobby un po' dei call center ha lavorato bene, ma certamente diciamo il registro delle iscrizioni per evitare anche queste cosiddette telefonate moleste. Ecco, perché esisteva già un registro delle opposizioni. Il registro delle opposizioni, e io temo, il mio timore è che soprattutto su un certo tipo di utenza molto fragile, e mi riferisco appunto agli anziani, alle persone come dire più inconsapevoli, gli sottoponi un risparmio anche di 5 euro a bolletta, per loro sono già tanti su pensioni precarie, loro e soprattutto accettano, la difficoltà forse per loro di andare ad iscriversi a questo registro delle opposizioni, eccetera. Quindi questo resta comunque ancora un tema sul quale andare a lavorare. C'è un ascoltatore, Tortellino di Bologna, simpatico, lui si chiama Lino, non so se di cognome fa Torte veramente, però insomma quantomeno il premio 2018 per il nome che si sceglie per presentarsi a Due di Denari, ci chiede se sono previste forme di protesta tipo raccolta firme in internet da parte delle associazioni dei consumatori contro gli aumenti di gas e luce. Ma no, perché questi aumenti, come sono arrivati, magari fra due trimestri possono anche tornare ad essere rimodulati, rivisti, per cui non dipende da un'azione di governo o di paese, ma da scenari di mercato internazionali che sono incontrollabili. Dei combustibili di cui parlava prima con l'interlocutore che ha aperto la trasmissione. Esatto. Detto questo, altri che tornano sulla questione della fatturazione a 28-30 giorni, sulla quale ancora non vedono chiarezza, il registro delle opposizioni non funziona. Questa è bella. Io, guardate, vi prometto, e lo faccio con Mauro appena torna, faremo faremo la puntata sul costo dei sacchetti di frutta e verdura, l'altra grande novità di quest'anno, perché io veramente qua la vedo, cioè, come dire, fare il nostro esercitare il nostro diritto di consumatori sottraendoci a questo balzello è difficile, perché qua non possiamo comprare più niente, avvocata. O andiamo tutti al mercato, prendiamo quelli di carta, ma comunque sacchetti nuovi ci dobbiamo portare a casa. E non è che quelli non ce li fanno pagare. No, che no, diciamo che molte catene, io ho già avevate notato... mai pensato che come associazione dei consumatori quest'anno avreste dovuto affrontare anche... Avremmo dovuto aprire l'anno con questo tema, forse no. Probabilmente non ci siamo posti magari il tema degli acquisti online, perché poi, come dire, è anche un po' un rincorrere da parte nostra quelle che sono i cambiamenti che la nostra che società no, si trova ad affrontare. Per esempio quello del commercio online è un tema sul quale abbiamo molto focalizzato e continueremo a focalizzare l'attenzione, perché il commercio online e tutti quelli che sono gli acquisti online, ci sarà l'entrata in vigore anche di una direttiva nuova sui pacchetti turistici nei prossimi mesi, di cui sicuramente parleremo. Certo. Come dire, perché dobbiamo, deve essere equiparata la tutela, è equiparata, ma molti non lo sanno, la tutela del consumatore anche quando acquistiamo online, naturalmente con alcuni cambiamenti. Sicuramente l'acquisto online è un acquisto molto più veloce di quello che facciamo quando andiamo appunto al supermercato e prendiamo il sacchetto, che però adesso ci dicono le catene della grande distribuzione che io ho visto che qualcuna non li fa pagare. Vabbè, ma magari mi sembra questa un'ottima operazione anche commerciale, perché insomma stavo ragionando con una mia amica di una panetteria, che per gli anziani che comprano una banana, una mela, una pera, veramente per i tre pasti dei successivi tre giorni vanno a fare la spesa anche per socializzare, ma tu per ogni frutto gli fai pagare il sacchetto della spesa. Quindi qua un'azione di responsabilità in autonomia anche delle insegne della grande distribuzione, ma anche di negozi un po' più piccoli magari. Però certo che se ne devono incaricare loro di tutto il costo, poi non è piacevole neanche per loro. Ma ne parleremo. Anzi, Mauro, guarda, visto che mi stai scrivendo augurandomi una buona trasmissione, Mauro Meazza, certo, lo salutiamo, e scrive: allora prometto anche per te che tratteremo la prossima settimana subito questo argomento. Graziano da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io sono arrivato tardi, ho sentito solamente qualcosa. Ecco, in base alla luce, ai costi dell'energia elettrica, io ho la seconda casa, non ci sono mai, mi ha costato tanto sacrificio il paesello, e mi arrivano giù delle bollette senza alcun consumo di 50 euro. Ce l'ho qui sotto mano. Si chiama oneri di sistema, vero? Costi di sistema. Eccolo là. Guardi, Mauro Meazza sa tutto su questa questione, per cui anche su questo tema ritorneremo, Graziano, perché è veramente inaccettabile. Sì. Uno ha una casetta, come dice lui, al paesello. Tu chiusa tutto l'anno. E però, insomma, le tasse, magari non le paghi da un'altra parte e le devi versare lì. Graziano, ci torneremo su questo tema. Velocemente, Yolanda da Firenze? Sì, pronto. Velocissima, Yolanda, buon anno, grazie. Dunque, io ho fatto una sottoscrizione a dicembre di 20.000 euro sul PIR. Sì. E mi sono trovata, dopo essere stata informata diversamente... con il 3% di commissione, e io ho già naturalmente sporto reclamo, ho fatto reclamare, perché ho detto non è possibile dopo non essere stata informata, e quindi il 3% è tanto, perché io mi sono trovata circa 600 euro. Certo, e prima che li recupera, questo fondo deve andare benissimo. Yolanda, grazie. Sicuramente un po' sarà compensato nei 5 anni da beneficio fiscale che c'è su questi prodotti di investimento. Poi 3%, 5%, una banca può anche far pagare il 10%, fa quello che vuole. L'importante, avvocata Anastasi, che la persona lo sa. L'informazione, la trasparenza, lo dicevamo prima, cioè la MiFID 2 ha questo obiettivo. Noi speriamo che veramente l'investitore ottenga delle informazioni più chiare, più trasparenti, più esaustive, perché fondamentalmente questo aiuterebbe. Intanto Yolanda ha fatto bene subito a farlo presente, non me l'avevi detto, io te l'ho fatto lo stesso, adesso vedi di correre ai ripari. Avvocata Anastasi, la prima puntata del 2018 termina qua, ci siamo divertite, abbiamo sempre naturalmente con lei. Grazie, abbiamo fatto una lista della spesa, come dicevo, dicevo, senza pagarla con i sacchetti nuovi di plastica per i nostri ascoltatori. Torniamo su questi temi prossimamente. Intanto grazie, io con voi mi risento stasera a Focus Economia. Buon anno a tutti.